Świat i benzina mi fa girar la testa. Quando sto su di lei è proprio la mia festa. Mi guardo quando passo sui vetri dei negozi, mi accorgo che con lei mi sento gelosa, non è mai preoccupata, per essere sorridente basta una lucidata. E quando io la guardo e penso che è la mia, mi sento il più gasato, rischiando che ci sia. Che quando sali su vedrai poi come ti piace. Due perché con te potremmo andare in giro, conservatorio pieno col giubbotto nero. Faccio le tracolle e lo sguardo incattato. Per me una birra media, per te un gelato. In giro per il mondo come sopra un ratto. Anche se potevo farti il giro del pasto.